sotto il sole, senza pensieri né parole, la lascio uscire dal mio cuore, ore, ore, ore, ore, senza far niente per capire, e mi ritrovo a camminare per strade nuove, camminare sul lungo lago di Salò. Lo so, lo so, lo so, lo so che sono un uomo e devo andare avanti, ma io sono a pezzi, mio Dio, hai saputo che ho rinunciato a lei, perché? Beh, questo lo sai meglio di me. Salud.